In Kazakistan intorno all'inizio di questo mese sono iniziate delle proteste nella parte occidentale del paese per il caro GPL. Il prezzo del GPL è raddoppiato per la privatizzazione del gas e i prezzi chiaramente sono raddoppiati, generando delle proteste molto violente che sono sfociate in scontri che hanno portato a più di 160 morti e hanno portato anche ad un intervento della CSTO, che è l'organizzazione di difesa collettiva, diciamo un po' l'erede del patto di Varsavia a guida russa. Questo intervento ha ovviamente attirato l'attenzione internazionale per le ripercussioni che può avere sia per la regione ma anche per le relazioni più in generale tra Russia e Occidente alla luce dei negoziati sull'Ucraina con gli Stati Uniti che stanno avvenendo in questi giorni. L'attenzione internazionale, in particolare di Russia e Cina, come la riusciamo a spiegare? Kazakistan è sicuramente la repubblica più importante delle 5 repubbliche centroasiatiche, non solo perché è la più estesa, parliamo di uno stato davvero sconfinato, ma anche perché è molto ricca di risorse naturali, petrolio, che tra l'altro fornisce anche a noi Italia, di uranio, ed è anche un tassello importantissimo per la strategia della nuova via della seta cinese, quindi dal punto di vista geostrategico è importantissimo per la Cina. È anche uno dei paesi più importanti per le criptovalute, infatti è secondo al mondo per estrazione di Bitcoin, nonostante appunto questa crisi abbia avuto un effetto importante sul settore del Bitcoin in Kazakistan per il blocco di internet che è seguito alle proteste. Possiamo dire che ci troviamo di fronte a uno scenario simile a livello internazionale a quello che si registra in Bielorussia? Allora, fatte salve le differenze, diciamo che ci sono delle similitudini, nel senso che in entrambi i casi i leader autoritari di questi due paesi, Lukashenko in Bielorussia e Tokayev in Kazakistan, hanno chiesto l'appoggio della Russia, che rimane lo stato più importante nella regione sia a livello politico che economico, e l'hanno ottenuto, ottenendo quindi di restare al potere. Però in entrambi i casi non si sta avviando, adesso dobbiamo vedere l'evoluzione in Kazakistan, un processo reale di dialogo con i cittadini, e quindi si rischia che questi due regimi autoritari comunque siano stabili solo in apparenza, perché poi le ragioni delle proteste e del dissenso continuano ad essere forti. Quali potrebbero essere gli sbocchi di questa crisi? Sicuramente c'è lo scenario che si sta delineando in questo momento, è quello di una stabilità politica mantenuta però attraverso l'intervento esterno di un altro Stato, della Russia, quindi una stabilità che, se ripeto, non si avvia un reale processo di dialogo, è solamente apparente. C'è un altro scenario, che è quello appunto della ripresa delle proteste e di una guerra civile, ma questo lo vedo molto difficile, perché la Russia ha dimostrato di voler mantenere la stabilità a tutti i costi, e tra l'altro anche la Cina ha dimostrato di essere soddisfatta con questa sorta di divisione dei compiti, no? La Russia che mantiene l'ordine e la Cina che mantiene un forte ruolo nel paese, soprattutto dal punto di vista economico. Per il resto altri tipi di scenari di collassi economici mi sembrano poco probabili, perché comunque il paese, ripeto, è tra le repubbliche centroasiatiche quello più ricco di materie prime e anche dove c'è un benessere più diffuso tra i cittadini, nonostante persistano molte disuguaglianze. Possiamo dire che però appunto la situazione in Kazakistan è un ulteriore tassello di tensioni, in realtà, che non riguardano il paese stesso, ma tra l'Occidente, Stati Uniti ed Europa da un lato e Russia e Cina dall'altro? Assolutamente è normale fare un parallelo anche con quello che sta succedendo in Ucraina. Secondo me sono due casi molto molto diversi. Nel caso dell'Ucraina ovviamente c'è una implicazione molto più diretta della Russia, nel caso del Kazakistan è semplicemente una risposta alla crisi, una risposta forte, perché Mosca ha dimostrato veramente di voler difendere la stabilità a tutti i costi e ha sfruttato, se vogliamo, la crisi del Kazakistan per rimuovere rinforzare la propria critica contro le cosiddette rivoluzioni colorate, perché Tokayev ha descritto la situazione come appunto un'interferenza dall'esterno e un tentativo di regime change, di cambio di regime, di rivoluzione colorata come ci sono state in altri paesi post-sovietici. Quindi Mosca ha un po', diciamo, reagito in maniera forte anche per rimarcare questa opposizione alle rivoluzioni colorate.